известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Questa è la voce del leader massimo Fidel Castro, ma il titolo di questa apertura potrebbe essere Fratelli Coltelli, se è vero che è tutt'altro che un passaggio politico agevole, fluido, quello di potere tra Fidel e il suo fratello Raul, dopo che il maxi rimpasto promosso a Cuba da Raul è stato criticato da Fidel Castro, che pure ha precisato di essere stato consultato da Raul, ma ha sottolineato che alcuni dei personaggi usciti dal governo erano certamente indegni, troppo carichi di ambizioni, ma che le cose non sono andate come lui avrebbe voluto. Insomma, c'è una lunga riflessione uscita intitolata Cambiamenti sani nel Consiglio dei ministri, a firma di Fidel Castro, in cui il leader massimo riacquista il primo piano della scena politica cubana, no? Smentendo gli annunci che avevano a lungo circondato la sua esistenza, soprattutto la sua esistenza politica, ricordate un lungo periodo di malattia. In questo scritto Castro sottolinea due fattori chiave: il fatto che rimpasto abbia portato al potere gli uomini di Raul, il suo fratello infedele, spiazzando i suoi, il disaccordo con la condotta avuta da personaggi chiave del precedente governo viene sottolineata da Fidel, tra questi due personaggi molto importanti come il ministro degli esteri, che si chiama Felipe Perez Roque, e il capo di gabinetto Carlos Lage, che ha perso la carica di capo di gabinetto, ne ha mantenuta comunque altre all'interno del potere locale. Fidel comunque lancia un monito e dice: nessuno dei due citati dai dispacci come i più colpiti ha detto una parola manifestando la propria non conformità. Il miele del potere, per il quale non hanno conosciuto alcun sacrificio, ha svegliato in loro ambizioni che li hanno portati a un ruolo indegno. Insomma, Fidel conclude la sua presa di posizione sulla nuova realtà dell'Havana con una frase delle sue, di quelle che poi vengono a lungo scrutinate dagli analisti: il nemico esterno, che tutti concordano a identificare naturalmente con gli Stati Uniti, si è riempito di illusioni con loro, grazie alla presenza di questi personaggi. Però poi, appunto, per quello che riguarda altre fasi del rimpasto, di fatto c'è una difformità tra i punti di vista e le scelte espresse da Fidel e quelle ora controproposte da Raul. Perché tutto questo tocca poi il punto di vista dell'eterno nemico esterno degli Stati Uniti d'America? Perché è ormai trasparente che l'amministrazione Obama, fra i compiti principali che si è messo all'ordine del giorno, almeno sul piano internazionale, al di là di tutta l'enorme questione economica interna, c'è anche Cuba e il tentativo, il desiderio di risolvere la crisi permanente, no? Che ormai da mezzo secolo va avanti con il regime comunista di Cuba, attraverso una iniziativa che viene definita ambiziosa. C'è un grande articolo sul Paese, che poi è stato ripreso anche da altri quotidiani, che riguarda l'argomento, e si dice che ancora passi concreti da parte dell'amministrazione di Washington non sono stati fatti, ma che è imminente. Mancano 40 giorni all'appuntamento, nell'ambito del quale ci si aspettano delle mosse importanti da parte degli Stati Uniti d'America. L'appuntamento in questione è il quinto summit delle Americhe, che si svolgerà a Trinidad e Tobago, e Obama non vorrebbe perdere questa opportunità per dare agli americani e ai cubani dei risultati concreti, consapevole come pare essere che la situazione interna a Cuba sia molto incerta, che il tempo per muoversi in modo efficace è limitato e che ha bisogno comunque di aiuto. Pare che Obama chiamerà al tavolo della discussione che riguarda Cuba soprattutto il Brasile, un paese con il quale sembrano da parecchi indizi in via di avviamento molte forme di collaborazione, una specie di alleanza globale per risolvere i grandi problemi regionali, continentali, anzi viene voglia di dire. Non è un caso che Lula da Silva sarà a Washington prestissimo, il 17 marzo, tra una decina di giorni, e che all'ordine del giorno dell'incontro Obama-Lula c'è proprio il vertice di Trinidad e la possibilità di includere il dossier cubano nell'agenda dei lavori, trovando naturalmente i modi giusti per inserirlo e tenendo anche in debito conto questa questione di un dissapore interno tra i due fratelli che dominano l'isola da ormai un tempo infinito. Ci avete chiesto notizie sulla posizione americana riguardo a Omar al-Bashir, no? Voi sapete che c'è questa questione del mandato d'arresto spiccato contro il presidente sudanese dalla Corte Penale Internazionale dell'Aia. La Casa Bianca tende a prendere tempo, a non assumere immediatamente una posizione decisa, c'è molta paura di destabilizzazione. Il portavoce di Obama Robert Gibbs ha detto che la Casa Bianca ritiene che chiunque abbia compiuto atrocità in Darfur deve naturalmente essere ritenuto responsabile, però ha aggiunto che il presidente sostiene l'impegno per un cessate il fuoco e un accordo di pace di lungo termine nella regione come priorità assoluta. La questione comunque di al-Bashir ormai è di rilevanza assolutamente internazionale, novità seguono, già vengono preannunciate dalle stesse televisioni americane a breve. Oh, vabbè, una nota un po' più leggera, insomma, ci sono, come vedete, molte mosse in atto e altre ne esamineremo nel corso del programma. Si sapeva, era stato detto, annunciato, e devo dire che hanno mantenuto la promessa che questa settimana per la nuova amministrazione, per l'amministrazione Obama, sarebbe stata soprattutto una settimana di grande attività sul fronte internazionale, sulla politica, sul fronte della politica estera, dopo molte settimane di attenzione ai fatti interni e alle soluzioni necessarie, e di fatto le cose sono così, un po' perché è in giro per il mondo, per l'Europa, Medio Oriente, Bruxelles, Hillary Clinton, e il suo passaggio non sta restando certo inosservato, e ci torneremo tra poco. C'è la questione dei rapporti con la Russia, delle eventuali aperture dello scudo spaziale, a cui dedicheremo un'intera sezione del programma più tardi. Ci sono queste novità che riguardano Cuba, che sono un inizio di discorso che seguiremo con particolare interesse, perché è un problema endemico degli Stati Uniti dell'ultimo tempo. Però poi ci sono anche notizie più leggere, su cui per esempio oggi il New York Times e lo stesso Washington Post devolvono, più serioso Washington Post, devolvono molto spazio, per esempio il fatto delle tempie. Le tempie imbiancate di Barack Obama. Insomma, entrambi i giornali osservano che dopo 44-45 giorni di presidenza le tempie di Barack Obama stanno rapidissimamente imbiancando, gli stanno venendo i capelli bianchi, i primi capelli grigi, dai, non siamo troppo tranchant. Pare che sia un destino inevitabile della presidenza. Si ricorda l'esempio del Bill Clinton col ciuffo alla Elvis, che pochi mesi dopo la residenza della Casa Bianca era già anche lui notevolmente ingrigito. Insomma, la tensione c'è, la preoccupazione, e il lavoro più difficile e più prestigioso del mondo un suo prezzo lo presenta. Vediamo qualche dichiarazione. I presidenti invecchiano di 2 anni ogni anno mentre sono in carica, sentenza Michael Rosen, che è il fondatore di un sito partito che segue le vicende, le peripezie dei presidenti. Comunque Barack Obama in bianca, ma non smette però di fare nomine, come sua ormai consuetudine. Un nuovo nominato al giorno leva il medico di torno. Questa volta c'è il nuovo capo della FEMA, FEMA, l'agenzia per l'emergenza civile, quella che finì nella tempesta davvero ai tempi dell'uragano Katrina per la sua inefficienza. Quindi un personaggio importante quello che viene messo su questa poltrona. Si chiama Craig Fagate ed è stato il responsabile dei servizi di emergenza per la Florida, e questo lascia pensare che sia uno che di uragani, tempeste e vari accidenti naturali la sappia abbastanza lunga. Questo per quello che riguarda Casa Bianca strettamente parlando, perché poi della segreteria di Stato, come detto, ci occupiamo tra poco. Good evening. This is the intergalactic operator. Can I help you? Yes, I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247. Very well. Hold on, please. You're through. Thank you, operator. Hi, darling. How you doing? Hey, baby. Were you sleeping? Oh, I'm sorry, but I've been really missing you. Hi, darling. How's the weather? Say, baby, is that cold better now? Oh, I'm sorry, is there someone there with you? Since you went away, there's nothing going right. I just can't sleep alone at night. I'm not ashamed to say I badly need a friend, or it's the end. Emiliano, questa è la moglie che parla con il marito astronauta. Non so se la sai la storia di questa canzone. No, purtroppo non la conosco. Una, insomma, di quelle che ci ha fatto sognare a suo tempo. È la moglie che ha il breve collegamento con il marito astronauta, poi gli stacca la linea l'astronauta che sta girando intorno al mondo. Lei gli dice certe cose, lui gli risponde, i due si amano, insomma sono... Però poi ci sono clouds across the moon, come recita il titolo di questa canzone, noi nuvole attorno alla luna che tolgono la comunicazione. Erano bei tempi, si sognava. Secondo me fa un po' sognare questa storia di Obama con Fidel Castro, a parte il fatto l'incontro Obama-Fidel Castro. Beh, secondo me sarebbe piuttosto clamoroso, anche se poi sarebbe Raul probabilmente, non Fidel. Comunque sia, chissà se è veramente una priorità, chissà se è veramente una strada percorribile. La risonanza che ha l'operazione mi lascia pensare che sia un progetto che ha le gambe, come si dice, ma staremo a vedere nelle prossime settimane. Fox in questo momento pubblicizza uno special dedicato a Bobby Jindal, colui che è stato una promessa della politica repubblicana americana per 2-3 ore. Ha già finito? E che è stato distrutto dagli stessi esponenti del suo partito il giorno dopo che ha fatto il discorso di risposta a Obama il 24 di febbraio. Hanno detto che è un incompetente, che non è un comunicatore. Adesso gli dedicano uno speciale, ho visto il trailer, in cui cercheranno di recuperarlo, sto disgraziato, a 37 anni. Dicevano che era un genio, vedremo se anche lui avrà una seconda, terza, quarta vita, come a tanti politici capita. Noi invece diamo praticamente la linea a voi, perché è tempo di Express Yourself, dei vostri pareri che adesso vado a prendere. Eccoli, parliamo dell'orso russo. Chi ha paura dell'orso russo, recita il titolo che abbiamo proposto oggi, perché tra poco avremo un collegamento con Angelo Antonio Rosato, che è un esperto in Russia, per parlare di questi contatti ravvicinati Russia-America, Obama-Medvedev, se c'è questa possibilità di una collaborazione, di scambio, com'è che stanno veramente le cose, e soprattutto, e questa è la domanda che vi poniamo, immaginiamo, ma fanno ancora paura, fa ancora paura, mangiano ancora bambini, insomma di cosa si nutrono? Allora, tantissime risposte molto articolate, direi attenzione prima di tutto a Marcello che va giù pesante perché dice: ho l'impressione che Obama si sia già giocato un pezzo di credibilità, ecco, importante con quell'approccio ingenuo a Medvedev, mi ha ricordato il peggior Carter, quindi credo che sia riferimento all'Iran, agli ostaggi americani all'ambasciata di Teheran dell'80 che costarono, se ricordo bene, la rielezione di Carter alla Casa Bianca. Obama deve uscire dalla campagna elettorale, prosegue Marcello, e capire che ora sta nel mondo reale. Poi c'è Dario che fa di fatto una domanda perché ci chiede: l'attuale Russia può essere considerata un paese democratico secondo gli standard occidentali? Questo è quello che vi chiediamo noi, abbiamo chiesto noi. Obama, paladino dei diritti civili, come la mette con i ceceni, con i giornalisti assassinati, l'Ucraina, eccetera, eccetera? E poi c'è Simone che di fatto gli risponde, se non direttamente, comunque a noi, perché dice: credo che il vero nodo sia quello tra realismo e idealismo. Se si vuol cercare di sfruttare la capacità di influenza russa sull'Iran, si devono mettere da parte tutte le perplessità riguardanti la situazione dei diritti umani nel paese del nuovo zar Putin. Giulio, meravigliosa caratteristica della Russia, o meglio del suo ex leader, ex KGB, è la diffidenza. Jan, arrogante erede di un potere in nuova lenta crescita. Matilde, spero che non venga fatto nessuno scudo antimissilistico perché mi inquieta. Fidarsi ai russi? Boh. Luigi, Obama attribuisce alla diplomazia un'importanza fondamentale, al contrario del predecessore Bush. Se la Russia sia un partner affidabile, questione da verificare. Sandro, la Russia ha come tradizionale nemico la Cina, a ovest tutto l'ex impero, ora in crisi economica che non gli è amico, ciò premesso non ho capito, la mano tesa di Obama è da afferrare subito. Mauro, gatta morta, questo è lapidario, ma Mukeba, la Russia è tornata ad essere una potenza, hanno gas, petrolio e altre risorse naturali. Abbiamo ancora pochi secondi, quindi restiamo allora su Facebook. C'è un Matteo che si esalta e dice: bravo Obama, almeno per ora la sua arma sembra essere la diplomazia, lettere a mano e non bombe a mano. Poi invece c'è Gustavo che si allinea un po' al giudizio negativo di Marcello perché dice: Obama pare non abbia avuto grande successo nel tentativo di creare una linea di contrattazione con l'orso russo. La risposta è stata pubblica e sembra decisamente simile ad una pernacchia. Infine Marino, io credo che qualsiasi cosa sia stata la Russia in passato, scrive Marino, le cose ormai stavano cambiando sempre più velocemente anche prima di Obama. L'attuale presidenza USA e la crisi in atto daranno, secondo me, un'ulteriore accelerata in senso positivo. La vede bene Marino? Questa crisi, per fortuna, ha anche qualche aspetto positivo. Sta insegnando molto. We'll be right back. guardate, li leggiamo i messaggi SMS, non continuiamo a darvi il numero perché siamo certi che lo conoscete, 349-238-6666, tanto per contraddirci, ne arrivano di molto interessanti. Joel, per esempio, pone una domanda non proprio epocale, ma insomma che ha una sua sostanza. Michael Moore, senza Bush, lavora ancora, ma lui annuncia molti progetti, ha un sito di annunci film, direi così, anche se naturalmente si deve trovare i suoi nemici. Io faccio un pronostico: Rush Limbaugh. Poi Claudia dice: io pensavo che i politici, capelli bianchi di Obama, argomento, in genere invecchiassero di 7 anni ogni anno. Quelli sono i gatti, chi sono i gatti, cani? Bene, invece passiamo ora al secondo argomento della giornata e per farlo ascoltiamo una voce. No, io считаю, что в 98 году. I believe that in 1998 I was right in my theory. It has to do with the fact. Questa è la voce del professore russo nonché politologo Igor Panarin. Abbiamo scoperto in Italia già qualche tempo fa, perché degli inviati italiani arrivarono primi sulla notizia. Adesso però la notizia è arrivata in America e ha fatto molto rumore. Tutto nasce da una sua intervista all'Svezia della fine d'anno 2008, in cui questo professor Panarin delineava in pratica il crollo degli Stati Uniti d'America, scusate se è poco, nel solco, ma un po' peggio di quanto era capitato alla Unione Sovietica: immigrazione di massa, declino economico, degrado morale, guerra civile. Entro giugno 2010, luglio tutta più concede il professor Panarin, gli Stati Uniti dovrebbero essere polverizzati addirittura in 5 pezzi e l'Alaska dovrebbe tornare sotto dominio russo. Allora noi con Angelo Antonio Rosato, che avete già ascoltato qui in trasmissione, un collaboratore Limes, un esperto di Russia, tra l'altro in questo periodo è negli Stati Uniti per un anno di studi proprio sui rapporti Mosca-Washington, vogliamo parlare della notizia sostanziale che è quella dei contatti tra le rispettive presidenze, ma prima vogliamo capire, Angelo Antonio, com'è che una notizia come quest'outing del professor Panarin, ammesso che magari lui lo conosce, sa chi è, ha avuto, come dire, una audience così ampia. Buon pomeriggio, Angelo Antonio. Buon pomeriggio a voi. Che effetto ti fa questa storia? È una bufala micidia? Chi è questo signore? Ma francamente sì, ho letto l'intervista sulla Svezia. Non conosco personalmente il professor Panarin, ma mi sembra una butade, o meglio forse un wishful thinking, nel senso che periodicamente in Russia appaiono queste idee, soprattutto da parte dei cosiddetti eurasiatisti, cioè di quei seguaci della teoria eurasiatica, che vedono appunto la Russia, l'heartland continentale, come il nucleo duro che deve prevalere, mentre gli Stati Uniti avrebbero un destino del genere. Vorrei solo far notare che in realtà chi ha rischiato veramente un destino del genere negli anni 90 è stata proprio la Russia, certo, ovvero l'ex Unione, certo, Sovietica, che si è vista davvero spezzare in più parti, perdere una gran parte del territorio, penso a tutta a tutti i territori del Kazakistan, che solo per sé un subcontinente, e ha rischiato davvero anche che si potesse spezzare l'unità con la Siberia e con il, certo, Far East russo, nonché una grave crisi di declino economico e anche di popolazione che tuttora la Russia comunque sta attraversando, perché la popolazione... No, più che altro, Angelo Antonio, mi chiedevo come anche nell'ambito, poi insomma tu in questo momento agisci nell'ambito dei think tank, dei grandi laboratori intellettuali americani, ma anche nei corrispondenti centri di studi russi, ci si possa esporre lo stesso politologo in questione con una teoria del genere, che insomma mi sembra l'anticamera della fine di una carriera, perché poi se ne esce difficilmente. Che dici? Beh, io ricordo che Fukuyama predisse la fine del mondo, certo, però mi pare che è ancora in carriera. Ancora in sella. Va bene, senti... la storia, anzi, scusate. Sì, certo. Se posso dire una cosa sinceramente, ecco, la differenza a volte fra gli uomini di studio, i professori dell'università, gli uomini politici, che se un uomo politico fa un errore lo paga, certo, lo paga severamente, mentre un professore se dice una cosa non tanto che non si avvera, una boiata, scrivere un altro libro, fare un'altra intervista, certo, e cambiare, certo, versione. Arriviamo al tema più caldo del giorno. Insomma, Hillary Clinton ieri ha auspicato di poter convincere la Russia a partecipare al progetto di scudo antimissile. Ci sono a Bruxelles, se ne parla intensamente. Spero che persuaderemo la Russia a partecipare a questo sistema, ha dichiarato. Cominciano i russi, ha detto, cominciano veramente ad ammettere che non è diretto contro di loro. Ha parlato di mutua difesa. Poi c'è la questione degli scambi epistolari Obama con il Cremlino, questo discorso di una possibile richiesta di scambio, no? Voi entrate seriamente sul tavolo iraniano e noi possiamo rivedere le nostre posizioni. Ci dai uno scenario aggiornato e possibilmente anche come dire, una linea di pensiero su quello che sta succedendo, su questa linea molto calda di contatti Russia-America? Beh, tanto per essere chiari, la mia sensazione è che il presidente Obama voglia disfarsi o quantomeno degradare questo sistema antimissile, che appare molto costoso e anche forse inefficiente. Mi sentite? Sì, sì, certo, vai. Perfetto, no, ho sentito un'interferenza. Ricordo che già l'anno scorso, avendo avuto dei contatti a Washington, mi era stato detto che l'estate scorsa che questo sistema in realtà non ancora esisteva, se non sulla carta, mm-hmm, ed è tutto da provare che sia veramente efficiente, che sia poi diretto davvero contro l'Iran o contro qualcuno, diciamo, più vicino, più prossimo come confine. Questo è tutto da dimostrare, almeno nelle intenzioni dell'amministrazione Bush. Dal punto di vista della Russia, nei suoi rapporti con l'Iran, è molto importante per la Russia la partecipazione al programma di sviluppo della centrale di Bashir, per due motivi fondamentalmente. Il primo e più importante è perché partecipare per la Russia significa in una certa misura controllare e influenzare, se possibile, il programma di sviluppo atomico iraniano. Vorrei ricordare che anche per la Russia avere uno stato così vicino, islamico, che diventa una potenza atomica, non, certo, è per sé, certo, una, certo, cosa così positiva. Piacevole, certo. Vorrei ricordare che l'Ayatollah Khomeini nel 79 aveva pronosticato la fine dell'atea Unione Sovietica, certo, e comunque è sempre un centro di irradiazione di possibili tensioni e di islamismo radicale per i russi, per cui per loro è importante Bashir per questa ragione, ed anche perché per l'agenzia atomica di Stato russa Rosatom, Bashir significa molti soldi che entrano nelle casse dell'agenzia, che negli anni passati non ha avuto vita facile, soprattutto per quanto riguarda appunto gli stipendi e la professione dei fisici russi. Dunque, per queste due ragioni la Russia ha tutto l'interesse a non tagliare, terminare la collaborazione con l'Iran sul programma atomico, e poi resta tutto dimostrare quello che la Russia effettivamente possa fare, perché sì, è vero che ci sono molti contatti tra Russia e Iran, ma che la Russia abbia l'influenza per dire all'Iran fermate il programma nucleare mi sembra abbastanza azzardato. Ecco, ma telegraficamente, voglio fare una domanda per concludere, sì, poi dobbiamo mandare le notizie del traffico, ma solo due giorni fa era arrivato dalla Russia un sollecito nei confronti degli Stati Uniti a negoziare con l'Iran, nelle parole del ministro degli esteri Lavrov, ma la sensazione è che sia una patata, no? Una patata calda, che si stanno in questo momento rimandando gli uni con gli altri, è una sensazione corretta? Beh, chi fa il, certo, primo passo? Comincia tu, che a me mi viene a ridere, non so come dire, qualcosa del genere. Sì, qualcosa del genere, nel senso che ambedue si rendono conto che quello che l'Iran vuole, e vuole soprattutto dagli Stati Uniti, è un riconoscimento del suo status di potenza della regione. Certo. Di potenza nella regione medio orientale. Certo, certo. Per questo per gli Stati Uniti è un po' complicato, perché significherebbe mettere a rischio il suo alleato principale, cioè Israele, certo, per il quale il presidente Ahmadinejad ha chiesto la polverizzazione, certo, e riconoscere all'Iran un ruolo che di fatto in parte sta avendo, perché la conseguenza intenzionale della guerra in Iraq e dell'Afghanistan è stato proprio quello di far accrescere la potenza relativa dell'Iran nella regione medio orientale. Va bene, ti ringrazio di questo contributo. Tra l'altro informo i nostri ascoltatori che c'è a fine aprile in uscita sull'IMES proprio un lungo articolo di Angelo Antonio Rosato dedicato per l'appunto al suo tema di specializzazione e interesse, ovvero i rapporti Stati Uniti-Russia. Diamo ora rapidamente la linea alle notizie del traffico e poi torniamo spostandoci ancora una volta più a est verso la Cina. 360 gradi, news dai punti sensibili del pianeta. Stiamo per chiamare in causa Saro Capozzoli da Shanghai, ma prima abbiamo alcune notizie che ci teniamo a dare. Vai. Allora, io mi dedico a qualche frivolezza cinese, visto che poi con Sara magari si parlerà di cose più significative, come Paolo, per esempio. No, diciamo, c'è un nuovo capitolo nella vicenda degli Oasis, ne abbiamo parlato due giorni fa, che avrebbero dovuto fare dei concerti in Cina, poi sono stati cancellati, pare perché 10-12 anni fa Noel Gallagher aveva partecipato ad un concerto a favore del Tibet, e quindi sono degli estremisti sovversivi. Quello fu un concertone, però, attenzione, un concertone tipo Live Aid. Quindi insomma, i cinesi hanno la memoria lunga, si sono segnati il nome di Gallagher e hanno bandito gli Oasis dalla Cina. Poi in realtà il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, chiamato sempre a questo ruolo ingrato di dire tutto il contrario di tutto, aveva detto no, gli Oasis hanno problemi di soldi. Sì, ma poi gli Oasis non sono adatti per andare in Cina, guarda, anche come comportamento medio. Però la novità è che Sina, che è praticamente il Google di Cina, il più grande portale di internet cinese, è tornato sull'argomento e addirittura ha scritto una nota sulla quale possiamo francamente dubitare, perché dice: la maggior parte degli utenti di internet stranieri esprime solidarietà nei confronti della decisione del governo. Alcuni pensano che Noel Gallagher sia un corrotto, altri sperano che il proprio paese possa iniziare a capire la Cina e che sia salvaguardata la propria sovranità. Quindi tutto il mondo sarebbe solidale con la Cina che ha detto no agli Oasis. Insomma, forse qui Sina l'ha sparato un po'. Ma anche Noel Gallagher come martire. State a casa, Oasis, per favore. Invece notizia grossa, importante, che verrà approfondita in altri spazi di Radio 24 certamente, ma ve la diamo perché è spuntata dalle agenzie: General Motors sull'orlo del baratro, il colosso dell'auto di Detroit, ne parlavamo proprio ieri con Malan, solleva dubbi sostanziali sul going concern dell'azienda, cioè sulla capacità di garantire la continuità operativa, insomma di vivere, esistere. La SEC, che sarebbe la Consob americana, in una nota fa sapere che GM ammette ufficialmente la possibilità di avviare la procedura di bancarotta, ricorrendo al capitolo 11, la legge americana che garantisce la protezione dei creditori nel caso non sia possibile organizzare le sue attività e finanziare i debiti. Non so se riusciamo a quantificare, ci saranno persone che sanno fare meglio di noi cosa significa un crollo di GM, General Motors, in America. E da un altro al volo che riguarda Zhang Yimou, regista famosissimo, il più famoso regista cinese, che una volta era anche un regista, se non proprio dissidente, comunque molto critico con il governo cinese. Ha fatto Lanterne Rosse, Vivere, ormai ha fatto la cerimonia di apertura e di chiusura delle Olimpiadi, si è perfettamente allineato col nuovo corso cinese e infatti ha annunciato che farà un film per celebrare in pompa magna il 60° anniversario della fondazione della Repubblica Maoista nel 1949. Questo compleanno significativo che sicuramente la Cina festeggia in lungo e largo cadrà ad ottobre, e quindi Zhang Yimou metterà la sua firma. Le comparse italiane sono avvisate, cioè chi vuole andare posto Paolo di lavoro, può andare lì a cercare un tanto altro state dietro, non si vede poi. Sentiamo Saro. Pronto Saro, come stai? Pronto, bene, ciao a tutti. Hai visto le opportunità di lavoro per comparse cinematografiche? Noi come diamo subito il segnale, se fanno la storia della Cina firmata da Zhang Yimou, chissà che cosa dovremmo scritturare Paolo, perché lui è stato già una comparsa, mi sembra, in un film, no? Va bene, spariamocela subito. Sappiamo che l'incontro che doveva avvenire per ora è in stand by, vero? No, è stand by per vari impegni, ma comunque vedremo nel weekend o più tardi lunedì, ci vedremo, ecco. Mi raccomando, Qui sì, mi farò sapere tutto. Bene, bene. Senti, due cose sono al centro della chiamata che ti abbiamo fatto oggi. Una riguarda questi reiterati servizi che si vedono sulle televisioni americane, che fanno un po' effetto e che chissà se anticipano servizi anche sulle televisioni italiane. Insomma, i vecchi torpedoni che scaricavano i cinesi, che facevano il giro di Roma o di Venezia in due ore, adesso in California scaricano sempre dei cinesi, ma che si comprano le case come se fossero panini, e chissà, un giorno potrebbero arrivare anche sui mercati immobiliari italiani. Insomma, c'è uno shopping immobiliare cinese che va a fare la spesa in giro per il mondo. È una cosa che esiste, di cui si parla, che ha una radice reale di investimento dei privati cinesi. Cosa te ne risulta? Sì, è un fenomeno nuovo, infatti è qualcosa che ci ha un po' sorpreso. È da due settimane che in America c'è un gruppo di 40, chiamiamoli, nuovi milionari cinesi, che vanno in giro, ma per conto proprio, che sono organizzati da varie enti o cose varie di promozione. Hanno preso di loro iniziativa l'aereo, sono andati in America, hanno cominciato con Los Angeles, termineranno con New York, a cercare opportunità di investimenti immobiliari, che dicono appunto che ci sono grosse opportunità, che con pochi soldi, fra virgolette, si possono comprare negozi, ville, ristoranti, palazzi, e stanno facendo shopping. E questo è un qualcosa da notare, che loro però sono tutti privati cittadini, quindi non è il governo che si muove e che va lì a far shopping, cosa che è stata quasi bloccata qualche anno fa, quando la Cina voleva comprare una compagnia petrolifera americana, gli è stata bloccata dal Senato, no? Quindi i cinesi hanno capito che lì non tira un buon vento, mentre dall'altra parte in Europa ci sono diversi team, gruppi composti da centinaia di persone, che girano, scorazzano fra la Spagna, la Germania, l'Inghilterra, la Svizzera, a fare acquisti di altro tipo, tecnologie, aziende. Ma servizi. Manca un paese fra quelli che hai citato, mi sembra uno che ne mancano due, ed è indicativo, manca l'Italia e la Francia, e questo nessuno lo dice. E infatti questa cosa qui, di questo shopping around, gli ultimi deal sono stati appunto in Germania, hanno investito 1,5 miliardi di euro in acquisto di tecnologia per il maglev, il treno ad alta velocità magnetico, per dire, no? Perché certo, ormai la Cina vuole raddoppiare, come dicevamo una volta, la rete ferroviaria, vogliono appunto sdoppiarla, separare da quella delle merci da quella delle persone, per rendere la Cina raggiungibile ovunque col treno veloce. E l'Italia è fuori, come, nonostante tutte le promozioni che possiamo fare qui, nonostante tutte le organizzazioni. Ecco, aspetta, Saro, sicuramente abbiamo poco tempo, ma la domanda che credo gira nella testa di tanta gente ci sta ascoltando, te la faccio io: ma se qualcuno pensa di avere qualcosa di credibile, di attendibile tra le mani, un prodotto naturalmente da proporre a questi signori che fanno shopping in Europa e che non si accorgono dell'Italia, tu che proprio in questo ambito ti muovi, ma c'è qualcosa che può fare? Ma io penso che loro adesso i cinesi stanno cercando nuove tecnologie, nuove idee da portare in Cina in questo momento di crisi. Solo penso le aziende italiane che sono già presenti in Cina potranno avere delle opportunità. Ci sono aziende che sono qui presenti, che stanno, io ho delle testimonianze, ricevendo ordini per le ristrutturazioni che stanno facendo, per dire, in Sichuan, per la ristrutturazione delle siderurgie e così via. Cioè, quindi chi è già qui ne avrà dei benefici, chi è purtroppo in Italia non si è ancora mosso avrà dei problemi a entrare in questo loop, perché i cinesi non avranno già dei programmi già stabiliti. Wen Jiabao, quando è andato giù in Europa mesi fa, aveva già fissato delle schedule e dei target, no? Quindi sono cose che si preparano con mesi di anticipo, certo, ecco. Certo. Quindi è difficile, ecco, poter dire, ecco, la cosa che io consiglio comunque di guardare la Cina non più come, diciamo, mercato a basso costo, ma per venire qui a cercare di trovare opportunità di questo tipo, cioè farti conoscere, però bisogna essere presenti. Senti, Saro, io ti proporrei di risentirci prestissimo, domani o dopodomani, perché sono tanti temi che non siamo riusciti a approfondire per motivi di tempo. Per esempio, questa intenso presenzialismo, diciamo così, di Wen Jiabao, non solo le notizie cinesi ma in quelle internazionali, vorremmo dei commenti, le questioni con la Francia che si riaprono. Ci risentiamo presto, certo. Va bene? A presto. Va bene, ciao a tutti. Abbiamo fatto in tempo, troppa carne tempo, al fuoco. Il tempo tirando, come si certo, dice. Certo. perché con i francesi continuano a litigare. I francesi, no? Poi c'è una storia di aste, hanno venduto dei bronzi antichi cinesi, i cinesi volevano la sospensione dell'asta, i francesi sono andati per la loro strada e quindi è nato un nuovo caso diplomatico. Ci torniamo, ma invece c'è un messaggio SMS che mi ferisce, ci ferisce, quello di Stefano a Vicenza, che ci chiede: come faccio a trovarvi su Facebook? Ma stiamo pettinando bambole qui, ragazzi. Repetita Juventus, vabbè, ma la radio è Repetita Juventus per natura. Su Facebook ve lo diciamo 2-3 volte al giorno. Abbiamo due siti che si chiamano, due pagine, si chiamano Redazione Jefferson 2 per parlare con noi. Due scrive in parola. Sbaglio pure io. Grazie. Vabbè. Jefferson 2, Radio 24, Express Yourself, che è la bacheca dove si discutono i temi giorno per giorno. Questo era il Jefferson di oggi. Stefano Pistolini, Emiliano Enrico, Valerio Occhetti e Filippo Reggi, la parte tecnica. Replica a mezzanotte, diretta domani alle 4 qui su Radio 24. Sì.